Attento Bacchisio, attento Bacchisio, attenzione Bacchisio, Bacchisio, cambio. Attento Bacchisio, attento Bacchisio, Bacchisio, attento Bacchisio. Dov'è? Dimmi, caro. Stamattina sto... aspetta, signor. Ma c'è Venezia, Antonello? Prova un po'. C'è Antonello? Segnale 6, sei qua, segnale 6. Ma Antonello, cambio. Non mi sento. Cucù. Marino, Marino, Marino, sei troppo basso, segnale 6. Troppo basso, stavo arrivando, no? Segnale 6, sì, eri, capito. Dove l'hai puntata la cosa? A Monte Alvaro. Presso con la zona, puntata. Dunque, negativa, per tasso, sicuramente. Oh, devi puntare a Monte Oro. Se la punti a Monte Oro, becchi in pieno Sassari, capito? Monte Alvaro è Porto Torres, capito? Bella con lo stagno. Ascolta a me, Antonè. Io qua lì l'ho scesa, Io qua sono pronto, l'ho scesa. E se ci possiamo mettere d'accordo per domani, problemi c'è per domani, dopo pranzo. Tanto è già giù. Ho procurato già la moretta. Tanto il tempo di aprirla, levigarla, pesare tutto e ciccia. No, domani già non ne ho problemi, perché stasera devo buttare giù la roba, hai capito, per l'ecocentro, quindi dalle 9 a mezzanotte. Alle 9 scendo giù, ci sono queste due letti di letto, questa poltrona, e così ho fatto. Poi domani vengo e se la ritirano, ne ho messo anche il numero, li ho messo. Adesso libero ogni mattina. No, non domani mattina, domani pomeriggio, dopo pranzo, là, come abbiamo fatto oggi, perché l'ho già scesa, è già giù, dunque pronto a aprire, capito? Già facciamo veloce, facciamo così almeno la sistema e ci siamo, così torno alla scala, che non ho fatto ridare la scala, è meglio, provato che ne serva, capito? Fatto. Domani, dopo che pranzo, salgo, ti prendo e tanto ferri non li devi portare, guarda, devi portare il coso. Con i cacciaviti, il test e le cose, il rosa, il salatore, se devi saldare, ce l'ho io qua, salatore, lo stagno. E già facciamo veloce, vai. E giù, pronta. Ok, va bene. Se l'hai già staccata. Non ci avevi visto niente di strano, non lo so. Nulla. Magari, controllate la saldatura che c'è dalla bobina al coso. Al PL è già salvato, non si è staccato niente, no? Tanto lì c'è il corto in pratica, cioè il capito che passa dal PL alla bobinetta, poi c'è la massa, ma dovrebbe essere la massa il problema. Io, Andrea, sinceramente non ci ho fatto caso, ho tolto il radiale, ho tolto e l'ho scesa giù, ce l'ho pronta giù. Prima di salirla vediamo un'altra delegata, vediamo, mi sono fatto la mola, dopo controllo, mi ha dato un'idea, dopo controllo con l'affare che stavi dicendo, ma poi vediamo anche domani, dai, tutto qua. E basta vedere lì la cupoletta di plastica, ce la accorgiamo subito, te la accorgi, capito? Perché se dovesse essere risaldato quel coso, fai altro che attaccare il salotto, li passa per la palla di stagno sopra e li andetti, se dovesse essere quello. Controllo stasera, lì tu la cupola di plastica e controllo dove c'è la salatura nella bobina grande, capito? Se è a posto. Perché dopo controllo, adesso io mi faccio... L'ho acceso adesso perché stavo... Bacchisio mi chiamava, invece in campagna aveva un controllo, ma se arrivo basso a te, figurati, vuoi girare, tra l'appunto verso il sasso, faccio prima, adesso quando manico lo stacco sopra, la prendo, già si fa veloce a girarla, devo solo svittare, ciccia, basta. Va bene, Antonio, là, ci sentiamo domani mattina quando sto salendo, così ti faccio trovare giù, dai, ok? Va bene, d'accordo, non c'è problema, per domani. E così almeno la piazza e ci c'è almeno una matto con la mezza delle palle, così torno anche la scala, che loro la uso, capito, fanno giardinaggio con la scala, la uso, almeno fatto, non ci sono più. Però questa cosa è che domenica forse ho messo il temporale, l'acqua, dunque se ci facciamo domani c'è la piazza e ciccia. Vabbè, quello sì, ma acqua non penso che abbia messo qua, perché c'è caldo oggi, la verità, non è un caldo normale, è un caldo anomalo, ieri c'era leggermente fresco c'era. Speriamo che non faccia acqua. Speriamo, speriamo. Vabbè, comunque lì è già giù. Se puoi controllarla domani. E ciccia, la misuriamo col testo, col cono, come la devi misurare. Così la montiamo sopra, così mi trovo con questo peso là. Ok Antonio, che faccio un'oretta, mi riposo là. Ci sentiamo stasera se concilio, ok? Ciao, grazie per il momento, Antonio, ciao. Ehi, d'accordo. A stasera là, fate un bel riposino e ci vediamo, ci sentiamo dopo le 7, là, 6:30. Ok, ciao ciao. Ehi, ciao. Ebbene, molti si esce. Io abito di a botte comunque. Tu stai in una zona fea. E gai, no, che sei in zona residenziale. C'è di tutto, piscine, tutto quello che desideri. Roba che tu ti rassogni. Ma di quelle roba non ne desidero nulla io, capito? Questa è una zona tranquilla, pacifica, così che stiamo bene. Come credi, qui è zona minata. Qui è bello tranquillo, pacifico, puoi uscire tranquillo, tutto pieno di oro, col portafoglio gonfio, nessuno si tocca, anzi, ti fanno l'inchini. E fate prima di cacci in terra, li fanno un inchino. Tutto ti baciano, ti abbracciano, ti fanno lui, ti pigliano a tracollo, ti cantano la canzone, ti vuole tutti i canti, no? Davvero? E allora, qui sì. Ui, qui c'è un campo minato, Se fossi te avrei cambiato zona, avrei cambiato, grazie. A chi dai vivi? Sono venuti tutti noi. A chi no che è una zona residenziale, di signori. Sì, hai ragione. Da, si vede. Si vede a vista d'occhio. E no che tutta gente in camicia e cravatta, E chi vi sono tutti bastonati, tutti vostri mali. È vero, Canta, che oggi sono tutti poveri, i santoni sono tutti ricchi. E allora, io che sono tutti ricchi, poi ci abbiamo anche giardini con tutti i fiori, tutte le piante belle, quelle con le foglie verdi, lì. Oh yeah, vedare di giù. E infatti, piante dei morti sono quelle lì, piante dei morti. Cai, no, che mi sono ripiatti che ti fate nel risuscitati, fate, se sei muregni, do ravvivi. Dai, ascolta, stati calmo, stati calmo, ti arrabbia. Chiudi i vostri tetti, l'ho detto, devi cambiare zona, che sei più tranquillo. Io che sei in un paradiso, qua si vola, ti sogni tu di furà. Sì, già si vede già, da lontano si vede. Qua voli, passi da una nuvola all'altra. Ti sogni tu i ghibi sopra. Qui è tutto bello. Sì, c'hai ragione, tutto bello. Sì, tutto bello da imbellire. Poi qui abbiamo anche i cannoni nella zona residenziale. I pannelli ci avete. I cannoni, roba che da voi non esiste. E per forza, perché noi non abbiamo niente, siamo poveri, capito? Noi quest'anno siamo tutti poveri, quasi morti di fame, mentre invece mangiate a quattro galasci. Tutti ricchi qua, mi vedi poco di cutani d'oro, anelli preziosi, curiberli, di tutto e di più, di nato, li vedi lappati pure in terra ai nostri. E poi forza, tutto quanto si era abbigliato, se ne abitano tutti noi canti, c'hanno la figlia a torre residenziale come tu dici. Allora, e loro che hanno fatto vento, pure di vedi solo banconote, di tutti i bizzi. Ai te, ai te. Oia, se ti intendi. Io che avevamo la zecca per la banconota. È vero. Sì, ha ragione, sì. Hai ragione, grazie, ha ragione. E quel bischero, che fine ha fatto? Stamani mi ha mandato un nuovo prototipo di antenna per il PMR. Oh, e beh, tu già ne hai soldi. Pigliala subito, te la metti. E chi ci faccio se ti rampo? Paglia messa. Ah, oh. Ce l'ho, ma basta, fino a fare i buchi. Quelle che c'ho, va. Guarda me ne posso, fatti già rubata. L'altra che mi avevo preso da Luca, l'ho regalata a Luca Manicumio, a me da Davide. Ah, e tu sei senza antenna adesso? No, io l'antenna ce l'ho, quella che mi avevo comprato in negozio. E quella sua dotazione nella radio. Ah, e che antenna c'hai adesso? Quella al gommino, nel portatile. Quel gommino flessibile c'ho. Quello in dotazione c'ho qua. Ah, Sì, una bella antenna allora è quella lì. E non ce l'hai anche tu, quella flessibile. No, io non l'ho tolta e ci ho messo un attimo io, a parte mia. Ma chi c'è andato? Con chi c'è andato tutti? Meglio dell'altro portatile che ho conservato perché era rigida quell'altra e poi era 10 cm. Questa è 20 cm ed è flessibile, fine. Già va bene. Mi su whisky, l'altra lì, a Baidelli ci sono in vendita. Costa 8 euro. Ehi, ma no. Oh. 8 euro, cosa deve fare? Se prendo l'antenna come si deve, non un giocattolino, certo. È inutile, vai a risparmiare certe volte 10 euro, cazzo, che non costano 10 euro, cazzo, e dopo ce ne rimetti di più. Oh, quella uguale a questa sto dicendo. Con questo io intendo a tutti. Funziona benissimo, la sua originale che c'è. Però le ho viste, le vendono anche separate, no? Ed era 8 euro, poi c'era quella quanto è il dito, quella grossa, chissà costa 1 euro. Non servono quelli, va, quelli non servono, ma va bene quello originale che ti danno, dai, la sua originale va bene. Voglia chi sta andando troppo benissimo dappertutto, sento a tutti, funziona in ogni posto dove mi sposto, a voglia, e niente, nell'altro che ce l'ho conservato c'ho quella più piccola, è rigida, è dei 10 cm, però ha detto da ogni volta in due mesi la ripeti, uno ce lo conserva, l'ho conservato. E poi c'è l'altro che quell'altro lo attacco con quella esterna, quando lo attacco. Ma quella non la stai usando? Sì, e l'altro giorno non stavo usando quella, anche con quella radiatura. Ma fai funziona quella esterna che è meglio, dai. Per pagare che siamo tutti noi in questo raggruppo, con chi si viene a fare il bocca, a chi intende a tutti, ed è raro che non senta nessuno, Antonella adesso lo sento a Bomboletta, a Marino lo sento perfettamente, a Bacchigio lo sento bene, a Torre lo stesso, e te da tutti, beh. Anche l'altro giorno che c'era un tipo lì a Predanetta, che ha modulato, è stato un po', lo sentivo a bomba qua. A me mi senti? Ehi, tu arrivi a Bomboletta lo stesso, arrivi bene. Io è raro che non intendo, che intendo male, a meno che non v'è tempo long più. E allora magari si trascina un po' di QRM. Per esempio Marino l'altro ieri stava provando una radio, mi pare una antenna. A momenti si trascinava QRM, a momenti no. Poi ha cambiato e non è, e stavo uscendo benissimo. Ma quell'antenna piazzata Marino adesso sulla mantova va benissimo, quella va benissimo. Lo so, quella la mantova gli stava dando problemi, la doveva smontare, riscendere laggiù e ricontrollarla. Così mi ha detto, ieri me l'ha detto. Ogni tanto manchi però, grazie a magari me l'ho detto io dalla presa del microfono. Infatti al momento non lo abbassi bene, si distacca, dopo si riattacca. Molte volte allento il dito, capito, e non esci. Sì. Devo venire uno da Bulbo, Alessio, se me lo dici, ancora è chiuso. E a Luca non l'hai sentito? No, stamattina mi ha mandato un paio, un video a Luca Flipper, un video di quell'antenna che stava costruendo. Gli ho detto stasera accendilo così vediamo se esci bene con quell'antenna. E mi ha detto che stamattina stava modulando un po' con Marino e stava uscendo bene. Meglio così. Ma io mi riferivo a Luca del Monte. No, Luca Manicomio non l'ha gentile. Vabbè, stamattina non c'ero io. Era il caffè. Gli ho mandato solo stamani un saluto e poi mi ha risposto lui. Con un saluto stesso su WhatsApp e da poi non l'ha gestito, ma da Luca Flippa gli ha detto se l'accendeva stasera così provava con l'antenna a sentirlo e ancora non sentito, mi ha mandato la foto di un'altra antenna, era però noi da insieme ha fatto questo simile a quella che ha fatto lui da. Sempre per te, ma è fermo, Archimede, bisogna chiamarlo Archimede, il bello del latte dolce. E allora, vabbè, meglio che inventi, così, da qui, si inventa cosa vende, si va a dedinarsi, la vendi. Va bene. Meglio che sì, forza sempre. Da poi si fa un progetto. Non ti dire dato il progetto, no. Ah, c'era una foto di un fusile di maniche, un pezzo di legno, cubicato poco fa, la foto. Gliel'ho condivisa, così lo vede più gente. E niente, e così animale ha giovato a pezzo, lo dice spugliatore, mi ha giovato durata che c'è animale, tutto a pezzo, durante una busca mi era mandato, e la giovata di noi era nemmeno il pezzo, lo dice spugliatore, la via la due, un randaggio, chi si sa attento i pezzi buoni. Cacchio, c'è la puttina. Lo trugò a fianco. Ma compararlo da Edo mi ha detto che era da agitarsi. Se la gita controllamelo, se si può riparare, non lo so, guardalo, tu lo sai. E vabbè, lo controllo io. Lo chiamo da di braghetta, a chi non mai mi chiamava, ma ho chiamato, ma via. E il caffè me l'ha guardato, sì, da buttare, beh, da buttare, vabbè, allora forse me lo ritiro la gente. Allora, in altra settimana ci mandate a me il figlio la viene dato, trasso una busta tutta appesa, ci mandate manco di pezzi se non c'è spugliato le mie vita. L'ha posto un poco di mondezza e mi ha trovato l'assa con un retto di rosetto spigliatore. Boh, ma è finita di tutto che si chiede. Ma roba da pazzi, come fanno questo? Non so io. La gente che c'è manco, che non mi ha tutto rimontato, tutto a pezzi, che io non sono manco pezzi. Perché io me l'ho messo sul tavolo, tutto quanto, una divulgata. E da ragazzo mi ha divulgato questa mondezza, se è tutto mondezza. No? Ma ti ho recuperato un carburatore che pare buono, che non era nemmeno il mio, che era un buon mio. Pensa alla candela già dentro, la candela era nuova nuova che l'avevi abbigliata dalla Bricome, prima di trattarlo. Pensa chi sa già dentro, non te lo ho capito, la ditta mi migliora. E cosa ce ne fa tuo padre? Non funziona, la mia migliora, te cosa ne so io? Poi lui lo vuole, ha detto restituirglielo. Hai compreso cosa se ne fa chiedo? Si ne via di attento la roba buona, non hai compreso? È andato per la mia quinta faccia. Vai, ci vanno a denunziarlo, vai, non ce ne porto più, da per me non ne fa vedere burumare la gente, che non va da posta, ma convincite a vedere se ti si imbacca il vecchio spugliatore giù. A recuperare già 300 euro allo signorino, che sei tutto macco. E tu sei migliorato, dai meglio, va, si costa di poco. Allora macco fare il spogliatore lui, qui si costa di poco, va. Me l'ho già comprato dall'altro giorno, vi ragiono a ghetta ai nocchi. Me l'ho tutto piazzato, e dei ragittegni a darmi la ripulsa. A giubilato me l'ho comprato, il 3D mi è arrivato. E beh, provato l'hai. No, domani devo scenderci in campagna. Ma dovrebbe andare bene, se nulla. Sì, è passante, di fare la miscela giusta. La miscela a due e va sempre bene. Sempre a due vuole la miscela. Mica l'ha già fatta mille volte una miscela. Non ha già mai sbagliato niente, ha sempre funzionato. Chissà di cosa l'ha fatto quando vi l'ha mandato, chi l'ha piazzato le guarnizioni nuove, vi l'ha mandato a Venezia, andate a vedere, e mi ha pigliato 35 euro e mi ha detto che avessi fatto a questo gasolio, a posto della benzina. L'ha detto tutti l'ha sognato lo gasolio, se venga a chi ti posso dire, lo bidoncino della benzina che faccio, ma ti pare che c'è buon con lo gasolio? Ma che cazzo mi stai dicendo? Ma ha tradito il bicino o il mastro? Lo babbo di chi su bicino? Chi su, ma che mano l'ha toccato là? Chi si è roba apposta a fare un figliolo? Fare un figliolo qui su bicino, Qua ragazzo sì. Spugliatori a pizzi. A faccia per aver cutto. Ma se fa schifo. L'ha già smontato la maniglia dove c'è l'acceleratore, che era nuovo visto. Lo coso di un rocchetto dove mette il filo. E tutto il resto si era già lampato. L'ha già fatto tutto l'aggio finito di rimontare e si era già lampato. E cosa me ne va via? Non erano neanche i pezzi miei a ripiazzarlo, cosa mi devi a butturare un gabbino? Ha detto, ma va a far culo, vai là a pazzire prima che andare a chiedere, e se non fosse inguti a pizza in bocca. Ma tanto i pezzi non se ne fai niente, perché non sono tutti uguali i pezzi, capito? Per cui non è che lo puoi spogliare a un altro spogliatore, se non è preciso, capito? cambia tutto, anche le, come si chiama, al Napoli, quel capo che c'è all'interno, che fa girare tutto, no? Anche quello diverso da tutti gli altri, c'è quello quadrato, c'è quello esagonale, c'è quello ottagonale, capito? E non tutti sono precisi, capito? Ehi, quell'asta in acciaio che c'è dentro, quella me l'ho recuperata, quella è acciaio. E c'ha... è squadrata una parte all'altra. Quel tondino lì, quella è una secca d'acciaio, quella me l'ho recuperata. E lo tubo d'alluminio l'ha già ripugliato di tutto e la già da paletta ce l'ha posta la bacina a balliarsi bianchi. Poi tutto il resto ce l'ho buttato. Sì, se l'hai nuovo sei tranquillo, boh. Allora, quanto hai pagato lo nuovo? Quella è un'offerta con gli sconti, Alpina, 150 euro mi è venuto con trasporto gratuito tramite Amazon. La cilindrata con te, 34 o 45? 45. E allora va bene, allora va bene, quello taglia e taglia. Ed è resistente quello lì. Mi ne rubiglia in un altro, in offerta. Oh, un 26 quello. 67 euro, sempre tramite Amazon. Bello lì. Sì. Senti, ma quello pesa. Quello tiene le braccia, grazie a io, che è pesante quello lì. Ma c'è la cinghia che anche la puoi mettere a tracollo. Ma ho letto, ma di te va tratta di ghiccio, da voi vedi, se andava ghiccio ti tieni solo ghiccio. Io me ne vorrei abbigliare un altro, ma vabbè, hai zitto, quando provo ghiccio. Mandami sulla scarpa per dire come te, chi si è abbigliato in tu. Adesso è tutto dentro la scatola, l'ho rimesso dentro, siccome lo puoi dividere in due per metterlo nel cofano della macchina. E stacchi l'asta, che domani quando in campagna che lo piaccio l'asta, li posso la botte e ti la mando. Ma non ce l'ha in casa o in garage ce l'ha? No, in casa e non che in veranda, però l'ho rimesso nella scatola, capito? L'ho staccato l'asta, il pezzo di davanti, no, con tutto la metà del tubo, e ho rimesso tutto dentro la scatola, si fa la scatola in tre, si fa, capi? Quella è fatta apposta per poterlo mettere anche nel cofano, capito? Vabbè, ma sulla scatola all'esterno c'è la fotografia, no? Aspetta, ma sì, mi pare di sì, aspetta che guardo, si beve la foto e ti mando la foto, sì. L'ha comparato in nero, non vi credi, Gio Marì? Oi, a chi vede? E te siamo facendo? Ti ho mandato un video, l'hai visto? Ah? Ti ho mandato un video. Oh, mandato. E non l'ho guardato ancora, Allora lo guardo adesso. Guardalo, guarda. Che è bello, come me. Aspetta che lo guarda. Attento, cuffo triste. Adesso l'hai fatta? Stamattina, dai. È come quella abbiamo prima piazzato in campagna, che c'ha l'attacco a fianco. Vedi, tocca fare girato lì in capo quando lo piazzi, capito? Perché essendo da sotto sarebbe stato migliore. Marco, già basta mettergli la L, il PL fatto a L. Va bene. Cazzo. Ma è provata, vai? Non la sto usando adesso. Ah, adesso la stai usando. Va bene. Sto parlando anche con Marino stamattina. Era a casa sua. Ah, ecco. Va bene. Va benissimo. Oh, ho messo l'atto stazionario che stamattina qua e ce ne c'era due e mezzo ce n'erano stazionarie. Guardando lo spessore era preciso. Guardando, cos'era? Il PLL che avevo messo, no? Quel PLL è a massa. Cazzo, l'ho messo direttamente e c'è 1,40. Hai visto. E poi considera dentro casa anche l'antenna. No, è quell'altra, lui, quell'altra stavo usando, capito? No, quello, l'altra piccola, quella è, ne ho uno e due e mezzo, ce l'ho, quella che ho fatto io. Ah. Va bene. Aspetta, ti mando una foto così capisci questa qua che modello è. No, non c'entra niente con quella che abbiamo messo in campagna, è tutta un'altra cosa, Giomari, tutta un'altra cosa. Aspetta, ti mando la foto. Ehi, ehi. Che mai? Dimmi. Mica te l'ho mandata la foto. Già la sto guardando. Ce l'avevo io una volpe, quella lì. Già l'avevo regalata a Giulio. L'avevo regalata. Era fatta così, però era, non era per il PMR, era per la banda marina, capito? Ma è precisa, capito lui? Luca! Ehi, ho detto che ce l'avevo io preciso una di queste qua, però non era per il PMR, capito? Va bene, piazzata su quel tubo, va bene, là, a voglia. Grazie! Ehi, era per dargli si bravi vediamo a foto, te l'avevo mandata la foto, anche a me è tutto incartonato, non lo voglio aprire un bacco. Ah, non c'è la foto esternamente. Cori, no, poi gli ho messo il nastro per richiuderla, è tutto a pezzoni. Ehi, vabbè, dai, domani me la mandi la foto, dai. Va bene. Domani a te la mando. Hai visto l'antenna che ha fatto l'Archimede? La stavo guardando qua, riesci a vedere. Datalis, Abbottu, Silio, questa qui è quella che vedo, non simile a questa, Sa dove c'è l'attacco in pelle? È un pezzo grosso, Ma quello cos'è? Alluminio oppure bacchilite? E che cosa, Giomari? Il pezzo grosso dell'antenna? Dove c'è le femmine attaccate. Ah, un rame, un tubo di rame, Giomari. Si può fare in alluminio anche, capito? Però io avevo il rame, ho fatto un rame. Ho capito. Va bene, quanto è a stazionaria? Luca! Guffetta! Non ti rispondi, no! È l'altro guffetto, mi sembra che l'ho sentito! Chiamalo! Luca, ma ci sei? Ma chi stai chiamando, grazie? A te, a Luca Manicomio, mi è sembrato di averlo sentito poco fa. Riferimento a Gufotrice sono io, perché ce l'ho anche nella licenza quando avevo fatto la domanda un po' di anni fa, vero Giammari? Ah, è vero, già è vero. Dunque è possibile che c'era un altro Gufotrice in zona lì, vero Giammari? Ah, è tutto vero. Visto là, è bello bene, quel gufo è 30 anni fa, triste. Ero sempre io, bello bene. No, c'era un tossico qua tanti anni fa, che si chiamava così. Poi se al baracchino c'eri anche tu, non lo so. Ah, ma al baracchino non era al baracchino, però al baracchino non ce n'è mai stato nessun altro gufo triste. Perlomeno. Confermi, Giammari. Mi sembra no. Gufo già l'ho sentito tantissimi anni fa, gufo normale, però gufo triste, me l'avevo messo proprio apposta così. E poi era riportato da un giornalino di Zavor, mi sembra, l'avevo leggito, visto gufo triste. Che si ricorda tutti i nominativi. Fa grazia, oia, dannaggio inteso le tue. Di nominativi, grazie. Beh, è che ce la metto tutti quanti. Ehi, qualcuno io già me lo ricordo ancora. Però ce ne sono stati un bel. Allora all'epoca il baracchino veniva via Buru, Gianfranco Marcito, che è il marito di Nunzia, quella che abita lì vicino, che non va bene a Rubugile, Pontine, te lo ricordi, abita vicino a casa tua, Giammaro? Sì, abitava il porto dopo di me prima. Dopo ha fatto cambio con un altro, capito? È andata fino all'altra parte. Ehi, ascolta, aspetta che mi sta chiamando la signorina, stava a piegare due lenzuola, vai. Ehi, vai tranquillo. Luca, però riprendi. Ehi, aspetta, sto rispondendo al messaggio. Eia. Attento Luca manicomio, morto sei. Attento manicomio, ci sei. Brappè. Allora va bene, posso verniciarla? Cosa? Luca? Ma quante già stai usando? Io sono dentro casa, ho detto. Ah. E beh, ti appare che sei scendive. Allora posso verniciarla? Allora devi ancora verniciare, capita, da sciamani ancora la fernisantenna, io stai facendo altro. E la devo sigillare, cioè non è che perché pallacchino. Fa pensare giù di cosa un manzano, gli avevi tutto il manzano, buro tutta la zina, andiamo a muovere, già mi conviene a me a finita a travagliaccia. Oh yeah! Oggi finisci la giornata, poi passa all'ufficio, non ce n'è più lavoro. Ma passa prima di risemi. Illu! Prima di risemi, a chi ha risetto, ha gattizzarrato, E cosa? A passare l'ufficio. E l'ufficio? Pare che la trinaggio è l'ultima lì, non fa più travaglio. A risemi, prima! Ma la visione, sono già risentiti, è già sarrato, Passa la ghetta che entra. Gabrino. Ehi, you. Dove sei in cucina, grazie? E allora, il mio posto è in cucina, vicino agli hanno abusato della gadria, è rombata la banca. Sempre da qui io modulo. Anche se al limite mi sposto dall'altra parte quando metto con la stazione fissa, però sono sempre qua. Ma anche se mi sposto, ti sento bene lo stesso a te. Ehi, anch'io ti sento bene, grazie. Va benissimo, Illu. Dove mi sposto, senta a tutti, con questa radio qua, con questo antennino, fine. Dai, ti ho mandato il video. Adesso lo guardi, riesci a vedere? E aspetta, caricando ancora. Tra 3 secondi ti arrivo. Non è arrivato. Manicomio, morbito sì. No, doveva fare roba. Eravamo insieme adesso. Eia, ma la devi verniciare ancora. Ho una mano solo, qui. Ah, anche la verniciare. Ah, la devi verniciare. E poi lassù, cosa ci metti? Un gommino. Dove entra, diciamo, il radiale. Sia nello stilo, sia nel sopra. Dove appunto vedi il radiale, ci vanno dei gommini neri, sì. Sì, anch'io, ti sento bene, grazie. Vedi? Va benissimo. Mi sento bene, andai con la radio tua, hai visto? E che non ha? Già arrivò bene nel tuo boyfriend. E l'altro ce l'ho conservato io. è quello uguale a quello lì, quel gommino piccolo. No. Ah sì, no, quello che c'è è un GT2, cos'è? Questo che sto usando adesso è il GT3. L'altro è il GT Mattes. Il BFM me l'avevo venduto 60 euro. È sempre, sempre Baufeng, GT3, GT2, il Lupo 5, sempre Baufeng. Ehi, su whisky, la di whisky 16 euro. Stanno abbassando adesso i prezzi. Ma su un altro cosa lo stesso l'ho vista anche di meno, ancora di meno. Due, ne ho visto un altro sito, due mi, voi prendi, 25 euro. Avanti quelli a barri, a chi non ne piglia nessuno. Oramai con la tecnologia, cosa, non ne compare già più nessuno. Adesso stanno cominciando a uscire macchine a elettrico, ne vede poco macchine rubate, a benzina, a destra e a sinistra. Per carità. Vabbè, la tecnologia. E allora, chissà da voi di chi macchina a batterie si arrecano in radiazioni. E così diventiamo tutti elettrizzati, tutti in correnti. Luca. Sì, a che inquinamento non viene intanto. Appena. All'imbara valemmo a sentire la lampadina solo tu che ne la cura a mano. Ah no. Io mi ricordo dove lavoravo io in fabbrica, giù, sotto terra era la fabbrica, faceva un sacco di rumori. E allora era due piani sotto terra, la fabbrica delle avvolgibili. E a fine giornata prendevi una lampadina a 12 volt di macchina, la mantenevi con la mano e si accendeva. E famigli belli tutti dritti. E rimanevi elettrizzato. Capito miai? Capito tio? Camari. Ehi, a pigliare il sole, ha detto che era nelle, chi si è posato a faccia a banca dei magneti? Quei papassini che ti ho mandato, Luca, non sai cosa sono? Ti si sciogliono in bocca, un burro. Di oggi lo sono, mi. Buoni. Cioè, papassini, come ti chiamano? Savoiardi si chiamano. Ma tu non ne hai mangiato. Capita, non me l'hai mangiato lui, verso le 5:30, con il caffè macchiato. Fatta la macchinetta, gusto come te che si chiama, gusto, adesso non mi ricordo il nome. Ah, dolce gusto. Dolce gusto. Rimani, me l'hai fatta la vaniglia, buonaretto. Ma Luca Maricò mi ho sorpreso. Chi ci sa far regno il uretto? Marino! Chi è? I carabinieri di Aldara. Beh, Antonei. Dimmi, grazie. Sposato di nascosto ti sei? Ancora no. Devo andare prima al sindaco, devo andare. Sto facendo altre cose prima, voi. Capito? Adesso appena il prossimo mese che vi tiro, anticipo, vado, pago, centato, ci voglio 100 euro e sono a posto. Ci vado col vestito bello, la picchiera da fuori e poi mi faccio baciare la punta dal sindaco. Mettiti la cravatta a ciccami. La cravatta chic mi metto. No, la cicca, quella farfalla. Così mi ha paffroscio. Ma cammarini! Rosaretta, C'era Gian Maria, è andato a fare il domestico, a piegare le lenzuola con la sua 50. E c'è Luca che ha ha fatto un prototipo nuovo di un'antenna e la sta terminando, vuole verniciata e tutta composta. Ah, meglio così, sono contento. Io invece in pratica c'è una scatola, adesso uno di questi giorni devo fare con i fori e ci metto il baracchino dentro con l'alimentatore. E così faccio l'apparecchio sotto le base con le manecce. Ma adesso non ti conviene, fa caldo e scalda di più all'interno della scatola. È ferro andare. La scatola è in ferro, la verità. No, dito che copirchi, ha capito, all'apparato. Ce la metto dentro la scatola, la metto con copirchi, mica ce la lascio copirchi. Lascio solamente il frontalino e faccio la misura giusta per far uscire il frontalino fuori e poi aggancio la staffetta dentro la scatola e poi affianco l'alimentatore, quello switching da 20 ampere, così nel caso mi capita un lineare di quelli piccolini c'è un filo dentro e almeno esco un 100 watt. Già va bene, va bene. Meglio così, vediamo se c'è Gio Mario. Papacu. Generi Lizzuri, vediamo se risponde Luca Manicomio. Luca, ci sei? È uno che mi ha chiamato Papacu, avanti. Il palito, Tutti varati ci si sono, Antoni. Tutti caduti sono, Papacu. Acqua propagazione, c'è 27, tutta. Avanti ieri c'era la propagazione allucinante, oggi è nuda. Sta arrivando schifoso, né propagazione né nulla, ma con un francese, un tedesco, nuda. Ma oggi non c'è un cane proprio. Luca non la. Mi varia niente invece. Niente. Tore non c'è. Bacchise in campagna. Tutti spariti, Marino sta lavorando, è cuccato. No, Marino dovrebbe essere già sveglio a quest'ora, perché mi ha chiamato alla una, all'una e mezzo, lui qua, hai capito? Solo in questa frequenza qua momentaneamente può entrare, perché l'antenna grande ha dei problemi. Adesso domani vado lì al sistema. Magari può togliere il filo del PL, magari non l'ha saldato bene, No, è roba di basetta, capito? C'è la base che è strana, capito? Quindi bisogna che gliela sistemo bene. Aspetta un attimo. Già sono qua. Illu. Drommi. Città Drommi. Che mamma ci ha mangiato gli gnocchi. Con le patate. C'è il frigorifero, ma non li ho cucinati oggi. Oggi ho fatto un risotto con il ragù. Cavè. Buonanotte, mi voglio mangiare una subiata e non mi ha dato i miei mogliini. Ma che mangi troppo, ha ragione. E vabbè, mi mangiavo due primi, se sta secondo, l'altri. Ti mangiavo i due primi e un secondo, così hai detto? E allora, e non mangiavo la frutta. Uffa. ma salute non posso pure, Oh yeah. Mi è sempre bene la mia vita. Antonello, Alessio Pomponio. L'hanno chiamato, sta uscendo bene Antonello, lo copi bene tu, Luca. Fondo schiena. Meno male, era ora di sistemarci quel cavolo dell'antenna. Ciao Maria, chissà cos'è Magnendi. Ti l'ha messo su, cosa vuoi sia Magnendi? Ma la cannuccia è Magnendi. E allora? E questo fatto dell'eredità, ma nel testamento già ci sei, già, sicuro sì. Mio già ti bruci, ami. No, mi ha fatto filmare, mi ha fatto un quarto della campagna è mia. Ma lei ti ha fatto firmare qualche foglio di cambiale, no? Lì già è prima. Ah, Panizio me l'ha fatto firmare impressa. Allora ti ha pigliato distrattamente, tanto che su, dico, buono, la firma è già firma, così ti ha fatto. E allora? Oi, chissà tutto cosa hai firmato, tutto questo che fai scritto. E chi ha aggiunto? È vero. Ma ha lasciato le piante della cariaccia. Chi non ha fatto le più cariaccia? Pure le montate di Nidirani. E fa forza, siete come te, la cariaccia fa fare una spina a polvere, ci la sospira. Ma conformata è già. Ma succia dura, così. E allora, come vede il germoglietto? È già incudita. Cata, pure un fiore si mangia, così. E allora, in campagna via via lì ci dice, ma vedi l'uvelmo che mi futtia sempre. Ma il primo anno mi dà zia, lo secondo anno si è associato, ma lo sicuro, la pianta dal centro, la siccata al lampo. Perché non le sai curare? Ma vabbè, giù, quando giù tagliato l'albero, giù tagliato da Edo. C'era l'albero, l'uvelmo era preciso identico, la seconda anima. Mi metto zato, sì, così. Ma già l'ha già affettato, buraetto. Ecco. Allora, allora mi da mettere nel suo programma e chi tu era nel lago prendendo topi muschiati. Aspetta, grazie, mi ha sentonato. Vai, va. Andando. Chiamari. Un attimo. Non mi tassi. Aspetta un attimo. Cuffo. Luca, Graziano. Tutti morti siete. Chiamari. A te piace, ah. Che cosa? Aspetta che la guardo. Guarda il tuo mandato adesso. Ma è sempre la matessi foto, però. C'è uno più corsa, ma uno non ce la faccio, ma nemmeno a prenderlo in mano. Adesso me l'ho portati freschi, ancora vivi erano. Ma sei ingagnoso, perché ti ho detto di trovarmene e non me li hai trovati, brutto. Adesso non ti guardo più. Ma se vuoi te le faccio avere, mi capito? Se vuoi te le faccio avere, basta dire a quella persona, io non mi ricordavo più, capito? Io l'avevo detto l'altro giorno a portarmeli e già me li ha portati stasera. E l'avevo altri due che erano grossi e ho detto perché lo hai portato? E dice, ma se lo volevo io, dice non l'ha voluto. Hai visto? L'avrei preso me volentieri, ma glielo dico, vai. E te l'ho detto io l'altra volta, adesso te ne sei dimenticato. Detto, diglielo di procurarli anche a me. Guarda, adesso non ti parlo più, guarda, non ti parlo più. Già glielo dico, appena che lo fai, glielo dico. Mica grosso quello, è un bulide. Non ce la faceva a prendere, visto che il braccio l'aveva un po' basso, perché non ce la faceva a sollevarlo. L'altro è più piccolo, però, ma primo è molto grosso, è su, una biovra. Bello, bello veramente. Diglielo però, giomaricata. Oggi l'abbiamo cucinato uno, medio grosso, e l'ha fatto con i gnocchi, l'ha fatto. Ha fatto mezz'ora, è diventato molto. E poi l'ha fatto un po' che salata e un po' come l'ha fatto in mezzo alla bassacciutta. Catta, non ti dico niente, procuramelo, Giomari, procuramelo. Glielo dico. Già glielo dico, ok. Ottimo. Grazie alla salsa fini. Boh. Grazie! Caggiù, ah, ma si vede che ancora la vendi i piatti, gatta. Aspetta un attimo, lui. Ehi. Guarda, ti ho mandato un video, guardalo dopo. Luca! Yeah. Ehi, ma infatti sono gatta. No, c'è la gente, e mi sono cassettato, ma se mi sono andato a volte. E beh, sì, aspetta, tu l'hai. Cosa? Guarda sulla scarpa cosa avevi. Che cosa? Guarda, te l'ho mandato adesso. Aspetta che sto facendo cosa nel terrazzo. Mi sono cominciato la roba dal dente in doccia. Dopo io guarda la scarpa, vede un po' se ti piace. Dopo guardo. Avammi bici la roba, già ti chiamo io. Sei già acceso qua, va. Ciao Mari, e bene? Se il villaggio è un bossetto, è congelato. Cos'è? Che ce li ho io i polpi nel bossetto, sono congelati, li avevo presi. Dove li hai presi qui? E me li hanno portati adesso, me li hanno portati, grazie a poco fa, quando mi sono assentato, che mi ha chiamato la signorina. È arrivato e me li hanno portati adesso, grazie a... hai visto? Quello grande, non ce la faceva sollevarlo lì, infatti il braccio ce l'aveva fatto stare giù, perché non ce la faceva. Anche era grosso, e l'altro magari più piccolo, ma quello là è grosso. Già sono belli, tutti e due, li ho fatto vedere anche a Paoletta, già sono belli. Oh, vi lascio così in mano, quasi quanto è quello grande. Ce li ho due nel pozzetto congelati. Uno che avevo preso l'altro giorno, grande l'ho cucinato stamattina, capito? Ne ho fatto un po' con sugo e un po' con l'aglio e prezzemolo, l'ho fatto, capito? Ma questo è molto più grande, capito? È maturo, Cato? 4 chili. Cato, è un bel manno, capito, grazie. Adesso vivi sono, Se li buoni, in un bozzetto, questi che hanno nei buchi sono belli e degni, io ce li ho nel bozzetto. A chi nel bozzetto poi si ammorbidiscono una volta lo scongeli e lo cucini. Mi sto facendo la provvista, infatti, grazie, quando ho mangiato la cosa, grazie, ogni tanto mi bisogna acciambando. L'abbiamo già messi poi nel pozzetto, capito? Li abbiamo già messi, adesso me ne devo portare altri due, che almeno ce li ho disponibili, capito? A chi non costa un bene, non costa i nomi, ma poi di sì. Io che costa un bene, ora non me la metto accanto alla mia bagaglia. Quanto era il Paoletto, l'avevo comprato io? Il polpa quanto l'avevo pagato? A 10 mi ha detto, a 12, ma sicurasi. E a 10 mi ha detto, l'avevo pagato. Su per giù è così, vai. Su per giù è così, 10, 12, capito? Ma costa 15 euro. E nel bosco era 4 euro. A 15 euro, chi la c'è di fine a 15 euro, Ira? Già è vero, a chi una volta ha domandato all'Eurospin e chi sa mi aveva detto a 15 euro, venire a uno ieri. E dice, e la giudizio, e me l'ho preso a vedere, infatti mi è uscito più di 30 euro. Ma di terzo l'ho preso e poi non se lo prende, perché tutti quelli che me l'hanno chiesto ne hanno imbrigliato un frasi, mi devo la gente lì me lo pigi, me la fa, pensate, la gente va bene, già me lo prendo. La gente che tu fa sentina ed era uscito più di 30 euro e me l'avevo preso, un bolpo, buruisso, e poi era buruvono all'Eurospia ed era 15. Ma è già così, l'abbiamo visto quando a ieri, l'abbiamo visto gli europei, però no, non lo so quanto era, non lo so, no, non ci ho malato. Ma su per giù sono così i prezzi, capito? Per cui questo me lo porta, mio genero va, che è un amico, glielo dà, capito? Eia, ma anche lì da Alice, quelli surgelati, ce li ha grandi, mi costa il burro più poco, solo sono dei fuori, non sono roba italiana, capito? Però sono buoni, ma te sai che un bel di voi ce l'ha giubilato io da Alice. No, ma che c'è pesato, che c'è pesato arrivare a coso a... c'è questo amico suo che fa il pescatore, no? E sotto se lo pregano, capito? Che quello se lo vende, capito? Però è roba fresca, capito? Roba da mare, tolto da mare e dato, capito? Già, si vede che è mezzo fresco, già si vede la roba fresca. Ho visto quella tenda che ha fatto Luca, e lei ci dà vita, mi te l'ha mandata a vedere. Bella, lo grivi. No, è bella, sì. Poi stazionare, se tu hai guardato, c'è il rosmetro inserito, e stazionare non ne ha, eh. Già me l'ha mandato il video. Oh, prima ha messo a fondo scala, poi ha spostato il tassino, stazionare era zero, neanche una ce n'era. Già me l'ha mandato il video. Vedi il paese. Io avevo stamattina, ho misurato la stazione di questa antenna che sto usando adesso, e avevo 2,7 di stazionare, ecco perché mi scaldava, capito? Allora, ho controllato lo spezzone, e lo spezzone non aveva niente. Siccome c'ho dal rosmetro, dalla dietro l'antenna, c'ho un PLAL, cazzo, ho controllato col test il PLAL ed era massa il PLAL, cazzo. Comunque mi sono rifatto di nuovo lo spezzone, l'ho infilato senza PLL, cazzo, e mi dà 1,4 mi dà di stazionarie. No, io nell'antenna che c'ho esterna non è a stazionarie, funziona bene. E chi c'ha la sua che c'è attaccata qua non è allo stesso e funziona vero ma stesso e non è un disturbio con queste antenne né con quella esterna né con quella in dotazione, andava bene. Certo, è perché io lo stavo uscendo con due più di stazionarie, mi ricevate bene. Cazzo, invece stamattina ho voluto provare perché ho visto che mi scaldava appena, no? Non mi ha scaldato mai e adesso si è scaldato, guardato ed era due rotti, capito? Infatti è vero, è PLAL che era a massa, invece adesso stazionare ce ne sono poche, niente, capito? Uno è che cosa e basta, e beh va bene così, capito? Oh, gatta, certe volte ogni tanto bisogna anche controllarle, capito? Non si sa mai, perché possono variare, capito? Ma questo non è a stazionare. Quando scalda un po' che parlo un bel con questo portatile, è perché te lo tengo in mano, perché se no se li metto il microfono, quello staccato, lo lascio sul tavolo, questo... poi tu te la rifà vedere, tu lo tocca ed è sempre congelato. E invece quando lo uso così, con l'antenna su sta microfono, e lo tengo in mano molto, scalda un po' dove lo mantengo io. Però è perché lo sto mantenendo io, capito? Però non scalda nulla, neanche il piccolino, quello con l'antenna esterna. Io sono un ghiacciolo. Quello che ho fatto io, quella tele che ho fatto io non è a stazionare, sì che non scalda nulla, è sempre ghiacciato. Questa è l'antenna esterna, ecco, perché ho potuto provare, capito? Perché non è per questa frequenza, capito, questa antenna che c'è. Ecco perché riscaldava, capito? Anche la mia non è proprio per il PMR, ma già andare ma adesso per il PMR. Non è proprio la sua originale, quella che avevo comprato, però già va bene lo stesso. Ma bisogna controllarli ogni tanto, è stazionaria, cioè, capito? a controllare ogni tanto il sartino, non costa niente, una, vabbè, tu non hai il Rosmet. No, di quello per guardare il PMR non ne ho. No, io ce l'ho meno male. Meno male ce l'ho io. E ogni tanto lo provo, capito? Anche quello che avevo sulla passare della finestra prima, che non l'ho tolta. Anche quello non ne aveva il stazionario, però secondo che tempo faceva mi dava leggermente il stazionario, capito? Allora l'ho tolta e me l'ho messa dentro e l'ho fatta apposta l'antenna e già va bene. Diceva uno e due di stazionarie. Me lo volevo comprare, ma la bella dice, ma cosa mi ne fosse da me, ma rimane in lampadini, vieni. Dopo, per quello che lo uso, ha detto cosa mi ne fosse. E non me ne ho preso per quello, se no me lo stavo comprando quel rosso. Quello uguale a quello che c'ha Luca. E danno anche in offerta la volta, adesso non mi ricordo quant'era, ma la bella di te, ma non me ne compro, già me ne fuori. C'è faccio l'altro, chi tu sei la 27, chi ti mi avevi dato giù, non lo tratto quasi mai, ed è raro che lo attacco a provare, ma... Quello per la 27 ce l'ho io, cioè, quello della 30G è preciso a quello che c'hai tu, però fa da accordatore anche questo che ho io, funzionano bene, certo, quello funziona bene lo stesso, e quello che c'hai tu funziona bene lo stesso, solo che se c'è massa, hai visto, ogni tanto manca, no, non piace preciso, capito? Invece essendo a posto le antenne, stai tranquillo che quello la misura bene. Già lo so, ogni tanto già lo provo, tanto per guardare. Già funziona sempre invece. Ci vuole già provato ultimamente, è a posto. Già va bene. No, quello che mi stavo comprando l'altra volta serviva per il PMR e anche per la 27. Andava bene, quello stavo comprando io. Era doppio o meno? Quello stavo comprando io, per la 27 e per la PMR faceva, infatti era bello grandetto. Ce l'ho io, quello per PMR per la 27, ce l'ho io, già 4 attacchi dietro, già, della Diamondo e di Marca, capito? E fa tutto quello lì, VU e 27, capito? Ce l'ho anch'io quello lì. Per la 27 ne ho 3 addirittura, uno l'avevo venduto ad Alghero e ce l'ho 2, 3 ne ho ancora, tutta della Diamondo però, c'è uno solo che fa tutto, fa 27 e pure il PMR, gli altri fanno solo PMR, ma 27 invece per PMR ce l'ho singolo, fa solo PMR e basta, capito? Ho pagato 70 euro. No, quello che stavo prendendo io c'aveva doppi specchietti, io li chiamo specchietti, là. Doppi così, però uno funzionava per la 27 e uno per il PMR, e infatti c'aveva 4 attacchi dietro di spinuti per attaccare l'antenna, già me lo ricordo, ma dopo non me ne ha giubilato, ha detto ma cosa me ne posso, tanto da bui rimane lampante, chi so andare a uno che mi sa ogni dì attaccare alle radio, chi fa un bene in radio, insomma, dice non me ne compro, non mi serve, va. A me mi servivano, li ho presi, anche se adesso non li sto usando, che se ne frega, sono ivi, non me ne chiede pane, per cui quando voglio, pido l'attacco e me ne misuro, dopo quando me ne misuro, pido lo risacco e lo metto da parte, e non me ne sta chiedendo pane, no. E a me mi servivano e me lo sono comprato, come mi serviva quello del PMR me lo sono comprato. E stamattina dice, non le uso, però stamattina l'ho usato e mi sono messo a posto bene l'antenna. Lo so, vabbè, ma tata va, non mica mi tocco il radio come attività di un tempo, ma prima la, magari la, lo potevo fare, ma adesso no, non mi interessa, ui. Ma che se vi siamo quattro giorni che siamo. Ma basta Luigi Zuberbe, che sta uscendo a tratti, sempre a tratti, sì. Abbassalo bene quel dito. Ehi, perché non avevo premuto bene il tasto. Adesso già sto uscendo bene. Prima si buia va, non va più nessuno in radio, e anda nei peggiorenni. Prima anche ogni tanto entrava Gianni, non sei più inteso. Sempre in frequenza, pure oggi in frequenza. Non immaginare, ma io all'udienza lo fanno. Loro sono nel 10, io al 10 non mi piace, cioè, chi mi vuole parliamo su 23, se no non ci vado io, capito? Sicché lui è sempre in frequenza, quasi tutte le sere, e beh, su 10. Su 10 non ci vado, non ci sono più andato neanche io. Qualche volta ascoltavo però non c'entravo neanche a parlare, ma... Il canale mio è questo qua, il 23, è il PMR. Capivo, o il 23 o il PMR, boh, io non vado da nessun altro posto, non mi interessano gli altri. Ehi, e Luca non si è sentito Luca Malecone, non è entrato banda. A che altura l'ha disturbato io? Non l'ho sentito per niente, no. Oggi non l'ho sentito per niente, stai merendando. Luca l'architetto che l'ho chiamata non mi ha risposto. Luca architetto! Ciao Mari, buonasera, ciao Grazia. Si sta costruendo antenne, sta costruendo. Ciao Tom, buonasera. Ce lo fare. Quello come archivere, sempre ingegnandosi, cazzo. Hai visto che bella antenna che ha fatto per il PMR, cazzo, e tu lamentandoti, cazzo. Io? Ma... non aggio di altro, dammi basta che c'è che faccio. Tu ce l'hai, è chiaro che va bene quella che c'hai. Già va bene, come va bene quello di Marino, già ci sentiamo bene ugualmente, così che io non ce l'ho, per cui va bene così, poi se c'è qualcuno che l'interessa, uno glielo chiede e ce la fa, o no? Infatti, se va uno che vuole lampadina, se la va di va, se l'interessa. Io lo credo, a me se mi interessa la mia abilità, ma siccome ce l'ho e non mi interessa, capito? Però chi non ce l'ha, se se la compra, tutto lì, ok, bene, avanti, ma grazie. Quella lì l'ha verniciata a base legno, mi l'hai vista, te l'ha mandata la foto. Me l'ha mandata, me l'ha mandato tre. Anzi, due video e una foto mi ha mandato. È riuscita bella, e anche a me me li ha mandati il video e la foto adesso dell'antenna rifinita. Che esci da vedere, Esci da vedere, esci bene, va benissimo, Va benissimo, l'abbiamo provata e va bene. Quell'altra più grossa... io l'ho avuta, però era per la marina, per la frequenza della marina, capito? Quella più grossa di base, capito? Quella della Sirio, mi sembra, quella della Sirio. Quella l'ho avuta io, però era per il ricevitore che avevo marino, capito? Ehi, ma cosa ne fai, dici? Ma... Marino, non ve ne so più, barche, che c'hanno il baracchino in barca adesso. Oh, adesso vanno i cellulari e non ne usano più il baracchino. Ma così è, torre. Guarda che ci sono sempre in radio, Per la frequenza marina, capito? Per la frequenza marina, non è baracchino isso, capito? Ci sono sempre per e uno può avere anche il ricevitore, io avevo un ricevitore, la usavo quell'antenna, ma ci sono sempre loro, non è che usano il baracchino per le frequenze di mare, no? Per il mare c'è la frequenza a sua, cioè, come può essere la PMR, come può essere in tante altre cose, capito? La frequenza già lo so che c'è sempre, ma un po' di gente non ne ha più di radio sulla barca. Diglielo tu, dai. Sì, non se ne intendiedo, no, di queste cose. Quelli ci sono sempre, ci sono, hai capito? Basta guardare la frequenza, basta camminare, basta avere l'apparecchio suo e ci sono sempre loro, sempre. Senza calcolare i canali civici, ci sono tante altre frequenze che hanno loro, capito Grazia? Non lo so. Io nella barca mia c'ho un gambero come... Perché stai uscendo a tratti, Grazia? Ma quale stai usando? Quello da base? Grazia! Ehi! Ho detto, quale stai usando? Quello da base? Io? Sì! No, perché? Perché sei tratteggiato! No, perché era rovesciato la radio, adesso! Adesso sei uscito bene, diglielo tu. Ma torre la cucciumò su, l'ubalacchino. No, la cucciumò su, non li bilia mossi. Cata, e chi ci avete tu invece? Hai sentito il mio baracchino com'è? Un gambero e a microfono va giù una ragosta. E a filo un'anguilla e un gronco. E tutti bisogna un baracchino del genere, ma lo vedi? Non mangio di giugna nuda di baracchino del genere. Ma che è te, devi lo Giomari. Ma non ci crede Graziano, non ci crede, via. Grazia, bisogna un po' in riga, bisogna sapere un po' di tutto, E allora, ma dimmi una cosa, tu, niente ne sai, ma storia cosa quelli, la guardia le fa vette. Oh, io veramente, se non ne so che venne favetti io, non ne ho, quindi non me ne posso nulla. No, l'amico tuo, Bacchigito, ho il buccello di bisello. Cosa ne so che? A me pare che l'ha già finita la vava, non lo so che, boh. Sì, già fatta lì la fa. Oramari, allora hanno fatto il tre zucchi da qua. Adesso c'ha le zucchine, c'ha i citrioli, c'ha i pomodori, c'ha le zucchine, c'ha un po' di tutto. Ma insomma, te le compri? Buoni le zucchine, sì. L'anno scorso mio padre mi aveva dato... Mi ne avevi abbassato i melenzani, buoni, dolci, mintati. E pacchi la poggio di zucchero. E beh, anche me, beh. Sì, è vero, io. Beh, se me la regalavi, mi ti facevi un amico. E mi sta confuso lui, buonasera, sta confuso Archimede, sta confuso Graziano, hai teso che si vira a regare il Sant'Elegante e andava a Luca. Archimede dov'è? Buh, rientra. Nel primo intendi ha inventato un prototico. Prototico? E allora, base legna, la verniciata base legna, quando la vedi te ne innamori. È vero. E allora, te la ciupi tutta. E lo vedi Luca, al barro. Però a Cimena. A Cimena, ma che cosa è andata le tre e mezzo? Sì, che mezzo, ci vuoi la dava. E che film c'era? Giorni tra volta. Ghiaccio in fiamme, per la fuga del cavallo morto. Bello, quello l'ha visto anche Tore, è vero che l'hai visto quello. No, non l'ho già vista, che non vedo che andare da cinema io. Quindi, la sono una di senza andarvi. Ah, pure Tore c'è. Tore! Il compare già diru. Diru? Ma che facendo c'è? No, drummendi è. Non mi tacci, Tore. Ma Mari, devi rudu. Sono come di cinema. Sempre uguali sono, Luca. E allora, ci vedo domani a fare compagnia, grazie. Scendiamo a Olbia. No, domani devo andare con mia figlia che taglia l'erba, l'operaria. Vai, che tu ci saresti venuto. No, se ero libero già sarei venuto, e chi guida? Abbiamo più andare a tagliare l'erba domani. Io sì. E allora? Chi guida? Io guido, anche tu vuoi guidare, finita. No, allora non ci vengo se guidi tu. Vai, io sono un fuoriclasse in macchina, un pilota. Chiede a Luca se io guido male. Guida abbastanza bene, capito? Vabbè, non ce l'ho due giorni dalla patente, ce l'ho qualche anno, Ma è proprio Luca mi ha detto che sei spericolato. Vero, Giovanni? Vero, già è vero. E che poi sei sempre attaccato al cellulare, ma sei geni. E massaggiati. Non ce lo puoi permettere, a massaggiare. Scusate, però non si può. Intanto mi ammaglio, ti viro lui. Tore, diglielo pure tu. Ah, io so guido, dove si può guidare, telefonendi, sono cavoli suoi. Un attimino, dai, che mi c'è quella coppa. Io, no telefonendi, massaggendi. Sono cavoli suoi. Lasciali, la social notizia. Gigi Milione, l'appresigato, un minimo 100, tutti con un telefonino. Voi dene fa vedere un telefono. Però sai che tu dai che sai niente. Ma la polizia ha detto che pigliava la darga. Se è stato un vigileo me lo fatto un ricco. Passati buoni un incrocio, allora canto li vedi, burino cazzassali. Qui tenne con il cellulare, è pieno. Beh, da chi lascia di inoghi, appostati, Irani, inoghi vizzino. Una ventina non hanno imbizzicato. A chi era con un coso, buru? Una macchina fotografica. Ti faccio una fotografia in un momento, qui tenne. Così imparami a trattare. Dove? Tutto per non mettersi il bruciuto con la malasurti TV in macchina. Funziona così, il cellulare lo dà che lo brusco, se rispondi con la voce caduta. Ma si mette si vuole va a vedere. Non spendere e far vedere che fanno il telefonino, hai compreso? E quindi sono 1500 euro di multa e 6 mesi di ritiro della patente, secondo cosa è. Sento, Tore. Troppi incidenti stanno succedendo, comunque sul cellulare. Guidenne Luca ha baciato, non ha già visto un'altra, c'è la notizia. Da per un quarto d'ora ha stato un capo, ma sei tu. E la macchina andendi, mi. Aspetta, grazie, che verrà uno che sta per entrare. Chi è che voleva entrare? Io, Tore, io. Buonasera, signor Bacchi. Mi pare che venga un'altra persona, Buru. Mi pare che sia Marino, Buru. Mari, tu sei? Ah, buonasera. Sì, è Marino, è quello lì. Sta chiamando da poco fa, Marino. Marino, mi ascolti? Non ti sento, Bacchi, non ti sento. Identica, non mi sente. Avanti, Toro. Marino non ascolta. Andate. Spero che c'è anche Gio Maria, se... Gio Maria, rientrato, sì. Non mi sono mosso, sono sempre qua, mi sto ascoltando. No, Marino non c'è, perché sennò l'avrei sentito. Marino non ha sbagliato per niente, nulla. Buonasera, signor Bacchisio. Riprenda lei. Prego. Ben ascoltato. E c'era Marino che chiamava, però non l'aveva a fare. Pio pio, terra terra. Tore lo ascolta, io niente nulla. Buonasera anche agli altri che non ho salutato, scusate se ho fatto il maleducato. Avanti, Giovanni. Ciao a tutti. Ok. bene allora, Graziano, a te, a salutare Marchisio. Buonasera. Ciao Marchisio, ben sentito. Cos'eri Buccelli Bizzillo? Mi sembra di aver sentito a Marino, Pio Pio. Prova a chiamarlo tu, Bacchi. Bravo dire. Marino, Marino, se ascolti Bacchisio, cambio. Ma ti ascolto, si avanti, va chi? Marino, mi pare non ti ascolta nessuno. Sento Marino, Bacchisio, l'hai sentita Marino? No, no, no, grazie, non lo sentono, tu lo senti. Io non lo sento, e vuol dire è per la tua direzione. Marino, non ti sente Bacchisio, mi copi? Sì che ti copio, ma non ascolti, basta, non ascolti, grazie. No, io ti sento bene in questo passaggio, poco fa ti ho sentito un trattino in mezzo a quel REM, adesso ti sento bene. Ma chi già non ti sente? Vediamo Torres, se lo senti a Marino. Sì, anche poco fa lo sentivo bene, ma intendo ancora meglio. Non so se Bacchisio lo ascolta. Nato. Ti fa vita di indui. Rem, avanti. E adesso ti ho ascoltato, avanti, ti parla. Beh, ti stai portando un po' di quel rem, appresso, Bacchi. Un po' di quel rem, ok? Avanti. C'è lui. Se non mi piace, non mi intendi l'uno con l'altro. Abbiamo sopramodulato tutti e due. Riprende ciao Marì. Io so che fa Bacchisio a non sentirlo, qua arriva a fondo scala. Ciao Marì, buonasera, arrivi anche qua bene pure. Bacchisio evidentemente stamattina non ha fatto il lavaggio agli orecchie. E allora, buonasera Gio Maria, ciao Torre, ciao Graziano. Signor Bacchisio, l'ascolto basso e sei a livello QRM. Avanti, signor Bacchisio, cambio. E adesso ti ho ascoltato, Marì. A momenti ti ascolto, a momenti no. Adesso avanti, mi ascolti a me. Ti ascolto, ma sei a livello QRM, oh Bacchì, ti porti via un po' di QRM, eh? Un po' di QRM e... Bene, avanti, fai girare, Bacchì. Marì, è bisogno che ti poi andare a Gadria. Anche forse Bacchisio non ti ascolta, perché tenta di soprammodularti, ma non perdisci. Che mi piace questa cosa. Dai, grazie. Ma la compagnia comunque, dottore. Avanti, grazie. Ehi, Bacchisio, lo sentono tutti e tu non lo senti, però alzati il volume di quella radio, perché sei in cantina. A me mi sembra che sia dentro il pozzo e non lo sente per quello. Bacchi, esci fuori, vedrai che dopo lo senti. Ehi, ehi, mi senti adesso Marino? Adesso sei un bombo, adesso ti ascolto come tutti gli altri. Avanti Bacchi. Ehi, ho cambiato antenna, sono andato in verticale. Marino! Va benissimo adesso Bacchi. La modulazione è pulita, pulita, pulita, l'ha lavata un per là. Bene, avanti Tore. Sì, oh, adesso io già vi ascolto tutti quanti. Deve essere che c'è qualche problemino, ma chi sono ascoltarti, boh, non lo so. Io ascoltavo ma è a livello QRM sinceramente, molto la modulazione, è pulita ma ci stai... Vedi, con un'antenna l'ascolto, l'altra antenna no. Illu! Allora, adopera quella che ascolti a tutti e le altre si ribuiranno un po'. Ehi, fermo così, grazie, hai ragione, bisogna una pazzira. Marino. Supponi ci metti sempre quella. Marino. Chi mi sta chiamando? Avanti? Mi senti, Marino. Sì, ti sento. Buonasera anche a lei. Ciao Marino, Luca, ciao. Ciao Luca, ti sento abbastanza bene, ciao Luca. Avanti Giovanni. Che buonasera anche a Luca. Ok, ti sto dicendo cosa Luca, a Marì, vai Lu. Io? No, ho salutato Gio Marì e basta, come se mi sentiva con l'antenna. Un attimo, ho visto il filmato Luca, ho visto, bella. L'avevo già vista quel tipo di antenna comunque, in qualche parte l'ho vista. Bene, avanti, scuoletto. Sì, anda per anda, chiatta. Sai gira tutti i pimpirini. Pimpirini, noi siamo sempre i pimpirini. Avanti, che va chi? Io salutiamo Luca, buonasera Luca, viene scucciato. Perché non stiamo andando con quello che hai preso stasera? Come stai dicendo, va chi? Va chi, zio? Ehi, mi ascolti? Sì, ti ascolti. No, sto utilizzando quella da solita, no. Quella che sono la pipetta sto utilizzando, l'altra è... Domani la giro appunto verso Sassari, forse il medio, là. Perché è un po' sorda, diciamo. Sorda puntata dopo puntata adesso. Se la lasciavo dove era ieri andava benissimo. Comunque, là. Non fare nulla, va chi? Avanti, grazie a Reto. Ciao, ci ha sentato, riprendi io che devo chiudere, vai. Io vi saluto. Ciao Marino, buon proseguimento, saluto di casa. Ciao Bacchisio, altrettanto, e ciao Tore, idem. E buonasera anche a Graziano, saluto di casa. Tore, riprenditela tu, io chiudo, vai, a domani, se tutto coincide, se tutto va bene. Ok, buonasera, grazie della chiacchiera, piccola chiacchieratina, ok? Ok, ciao Gianmarì, ci sentiamo alle prossime, ok. Anda bene, riprendi Grazia. Ehi, ciao Gian Maria, buonasera, buon tutto, saluti in casa anche da parte di Paoletta. Ok, anche io chiudo là che mi devo fare cosa ai nonni. Ciao, sentiamo a domani, salutori circolari a tutti, riprenditela tu Marino. Benissimo, grazie, ok, ciao Giovanni, ben sentita, domani se coincide, saluto in casa. Iden, Graziano, saluto in casa, ci sentiamo domani, avanti, Bacchisio per saluti, cambio. Salutiamo Graziano, buonasera Graziano, buon QRT, buona insulina, buona cena, buon tutto, saluta la signora, a domani se tutto coincide. Iden con le patatine anche per Gio Maria, ciao Gio Maria, ci sentiamo domani, saluta la signora, a domani se tutto va bene, Tore riprenditela. Tore che ha avuto la sedia, Tore? Sì, sono qua. Oh, ok. Ciao Grazia, ci sentiamo alle prossime. Ok. Ti prenderà Bacchi. Mari, quando vengo qua, Mari, me la faccio una chiacchierata, dai, vediamo, dai. Ciao, anch'io chiudo, ciao Bacchisio, ciao Marino, ciao Tore. Buon proseguimento, buona serata, ciao. Ok, ciao Luca, ci sentiamo. Riprendi Bacchi. Io salutiamo Luca, ciao Luca, buona serata. Grazie delle due parole cambiate. Buona cena, buon tutto e buona passeggiata quando uscirai. Marino, avanti per te. Okay, ciao Luca, ben sentito, domani se coincide. Buona serata. Bene, Meda, è così e Bacchi. No, domani la prendo da giro, la punto verso Sassari, che faccio prima, dai. Se l'avevo lasciato come ieri, andava bene, andava bene. Bene, Meda, avanti da chi? Boh, sono meravigliato, con l'altra antenna prima funzionava bene, mi ascoltavano tutti, adesso tu non mi ascolti, con quella arrivava la bomba, adesso niente. E boh, adesso sarà a giorni, boh, io ti ascoltavo bene ieri quando ero attaccata, ho trovato una bella pulita, adesso sei proprio a... Basso, non basso, sì, molto quel reme ti porta preso, capito? Molto quel reme. Avanti. Ah, sai che a momenti ti sento, a momenti no. Adesso ti ho sentito. A momenti zero con quell'altra antenna. Io sto usando quell'antenna, la solita antenna adesso, La solita antenna, quella c'è fuori, quella che c'è la pipetta. Ho capito. E con quell'altra antenna che mi ascoltava benissimo ho sentito quattro parole e poi basta, l'altro zero, riporto zero. E domani la giro, va chi? Domani la giro, faccio prima. Domani sera quando salgo la prendo alla punto sasso e basta. Bene, avanti tu. Sì, andava bene, ma io ti ascolto benissimo. Boh, cos'è che c'è questa antenna? Ma quella sto... E sto utilizzando, poi ho piazzato un'altra antenna, la direttiva, poi puntata verso, ieri c'ero verso Senoli, adesso puntata stamattina verso Polotose, ma boh, non so se mi ascolta, sai che l'attacco, che l'accendo, un attimino, vi faccio chiamata io, dai. Ma chi, ma è la tua cosa c'ha? No, zona mia non c'è niente, è sempre lì fissa, è fessa. Ascolto a tutti, escluso Marino. Marino mi entra due, tre parole e poi zero. Mi arriva in fondo scala e poi va zero. Capito? Grazie, Tore, ascolti adesso. Ah, ma tengo su, però ti ascoltavo come segnale era meglio prima. Ah, vai, come segnale ce l'hai più poco, no? 9, 8, 9. Però la radio è forte. Ma con questa qua? Vedi, adesso ti sei abbassato il segnale a 7 dB. Come radio è forte, come segnale ti sei abbassato. Ok, no, questa è la direttiva puntata verso il produttore, hai capito? E vabbè, domani la giro, dai. Adesso ti stacco qua e attacco l'altro, no? Ok. Avanti, Bacchito, mi ascolti, no? No, con quella lì no, ti ascolto con la verticale. Con la verticale ti ascolto benissimo. Con l'altro, nada de nada. E ok, no, ho ripreso nuovamente l'altro. Bene, ma chi dice cos'è? È anche una frequenza strana questa, capito? È una frequenza strana. Avanti, to. Ehi, andiamo bene, andiamo. Ma io se mi piace la 27 a me. Ehi, c'è ragione, c'è ragione. No, io mi... stamattina l'ho scesa, adesso ero una bella pulita e domani siamo e mi piace tutto. Perché mi stavano dei problemi e ciccia. Avanti, ma chi? E me l'hai smontata, così è. Sì, ce l'ho già giù, ce l'ho. Ce l'ho giù, domani appena esco dal lavoro, domani mattina appena esco dal lavoro mi smonto tutto il pezzo di sotto, la controllo, le do un'altra passata di ragazzi con la mola, la raschio ancora, se mi è rimasta pittura, e ricontrollo e le aggiungo qualcosa, poi domani sera già viene cosa, il tonnello, e la facciamo assieme. Bene, avanti. Ok, allora ci viene un tonnello già... C'è la spulcia Antonello, quella lì. Sì, porta lo strumento, facciamo più veloce. Adesso viaggi così, l'ho scesa, non perdiamo tempo, capito? Non perdiamo tempo, appena arriva, sono 8 viti, perché 8 radiali, 8 viti. Svidiamo le viti, vediamo una bella pulita, vediamo dentro se c'è qualcosa. Se ce la dai qualche puntina, vediamo una puntina, poi le do una legata e ciccia. E dare piatto. Quando piatto mi fa il suo difetto, la prendo, la taglio e ce la butto. Avanti, to. Sì, e te la posto bene, a modo così esci perfetto. Anda bene, anda. Sì, mi sta facendo un difetto, tocca o non tocca, capito? A momenti vedevo il segnale che saliva e scendeva, quando c'è vento. Quando non c'è vento andava bene, capito? Pure c'è qualcosa sotto e tocca o non tocca la massa, o non faccio la massa. La vediamo domani sera, avanti, vacchi, dai. Io, domani farò controllare. A che ora scende perché è Antonello? No, stago io a prenderlo, dopo pranzo. Dopo pranzo stago io a prenderlo. Ah, dopo pranzo, ho capito. Se passavi nel mio tra le campagne gli davo lo scanner da controllare Antonello, per non andarci su. E adesso vediamo, se finiamo prima. Adesso vediamo, là. Ce l'hai in macchina lo scanner? Me lo porto in macchina. Me lo metto in macchina così se passa, se no non succede nulla. Adesso vediamo che affiniamo, Bacchino. A chi hai sempre con l'infrizio, compreso? Adesso vediamo, affiniamo, se in caso ti chiamo, se ci sei, passiamo e lo prendiamo. Se no io dovrei salire in settimana a casa sua. Dovrei salire in settimana. A metà, là. Adesso giovedì, venerdì dovrei salire. Bene, avanti, to. Sì, andiamo bene, andiamo. Cacunza sempre. Io animale, ho abbigliato in mano una macchina, le cose a Darido, e mi ha aggiustato tutti i cavi dietro, nel cofano. Stavo dimenticando, to, scusa. Tuo Genova come sta? Ah, sta bene, è rientrato in officina, però non fa sforzi né nulla. Si sta riguardando un po'. Già sta bene adesso. L'hanno bombardato di antibiotico come al solito. Il pacci gli epiglienni passa bene, anche se no l'infezione non ribassa mai. Se vedi guardare, poi i polmoni che lo sai. Sono maledetti, avanti Bacchi. Ehi. Andrà bene, vedo. Mi sembra che adesso ci andiamo a cenare per le pastiglie, per pastigliette, medicine, medicinette e poi mangiamo. Va bene, Marino, ce la sentiamo domani allora, se coincide. Se no Antonello, sai cosa fai? La porti al latte dolce, la moglie se prende la 25 e la porta fino a casa sua. Adesso vediamo, dai. Adesso vediamo. Non c'è problema per lui. Perché non c'è problema, bene, la fine sta chiudendo, se ho capito. Se in caso ci vediamo domani mattina, adesso vediamo, dai. Appena esco, già ti faccio uno squillo e ci vediamo domani mattina. Ciao Bacchi, ben sentito, ciao, sono in casa, va, a domani, avanti to. Ciao Bacchi, ci sentiamo, ok, a domani. Ari, chiudo anch'io, non è venendo mezzogiorno buro. Andà bene, dai, ci sentiamo domani, se tutto andà bene. Ok, ciao to, ben sentito, sono in casa, a domani se coincide. Benissimo, anch'io rimango un po' in ascolto, poi chiudo. Ciao a tutti. Ciao Bacchi, a domani, ciao. Ciao Marino, ciao Tore, a domani, ciao ciao. Buona cena. Ok, ciao Bacchi.